Agnese, prendi pure il clarinetto, ogni suono per me è un colore, per te il suo è un grande amore. Almeno questo, se ti penso, so per certo. Ti dicevo prima del colore, e avrei voluto chiedere il tuo parere prima di scrivere questa canzone, e vediamo se viene bene. Quel colore che a me sembra magenta, ma di fantasia anche io ne ho tanta, e la musica con le sue magie finirà per confonderci almeno un po' le idee. Agnese, ora lascia il clarinetto, sai che resterei ancora ad ascoltarlo, ricomincio a sentirmi mentre parlo. Algebra, la lavagna e tutto è perfetto, ma chi vuoi che importi quel che ti... La musica resta il nostro sogno antico, ma con lei non riuscirei a far lo stesso. Per me è spontaneità, lo confesso. Sarebbe bello se un giorno provassi a spiegarmela un po'. Con la tua instancabile fantasia, dai Agnese il clarinetto, prendi e via.